Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e nove minuti primi. Tornano le trasmissioni in diretta qui su Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. E questo è l'appuntamento con Do It Yourself Invasion. Stavo per dire ogni martedì dalle 21 alle 22.30. No, ultimamente gli appuntamenti sono stati un po' alterni. Vita amara. Brevemente i contatti della trasmissione, della radio. Partiamo dal sito, dove potete ascoltare Radio Onda Rossa in diretta streaming. E quindi al www.ondarossa.info, andando a cliccare su Ascolta. Ta-da! Oh, martedì 23 maggio, eh? Eh no, perché domani è il 24 maggio. E sono 40. Eh sì, perché domani Radio Onda Rossa festeggia 40 anni. Vabbè, ci arriviamo. Allora, contatti della radio appunto dal sito che è ondarossa.info, oltre il poter ascoltare la diretta in streaming. Andando a cliccare su Sostieni potete contribuire direttamente alla vita della radio. Quindi con quello che potete. Però l'invito appunto è a sottoscrivere. Quindi appunto andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate e modalità che troverete per poter sostenere Radio Onda Rossa. Oppure potete sostenere Radio Onda Rossa partecipando alle iniziative di autofinanziamento. Ultimamente in vista dei 40 anni. Devo dire che ci siamo attivati tutti e tutte. Più del solito. Eh sì, pioggia di iniziative. Mentre per scrivere alla redazione di Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info. Mentre per scrivere a questa trasmissione al sottoscritto, fantasma@ondarossa.info. E quindi per segnalarci iniziative, proporci le vostre autoproduzioni. O anche per insultarmi, non è che potete farlo. Per ultimo il numero di telefono della diretta, 0649 1750. Quindi fatevi sentire. Vabbè, non è che a caso inizio col thrash metal, eh? Cioè, non è che devo trovare una giustificazione per iniziare la trasmissione col thrash metal, però in questa puntata torniamo a parlare di metallo. Eh sì, no, già l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di presentare la ragione di vita, la prima edizione del Metal Against Shit. E che fai? C'è una seconda edizione del Metal Against Shit e non lo presenti a Do It Yourself Invasion? Eh? No, dico. Eh sì, che lo presenti, certo. Sì, certo. Allora, vabbè, insomma, però non tutti sono così dentro a questo tipo di iniziative, a questo tipo di sonorità. Andiamo a ricordare che cos'è, cosa è stato, cosa adesso, cosa sarà il Metal Against Shit. Allora, innanzitutto buonasera Dario, ti ringrazio per ospitarmi, avermi ospitato la seconda volta. Ma grazie a te. Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Anche se un giorno in anticipo, auguri a Radio Onda Rossa. Sì, sono venuto a parlare del Metal Against Shit. Ci troviamo adesso alla seconda edizione. È un festival metal di chiara impronta antifascista. È un evento che serve ad aggregare tutto il movimento che non è d'accordo con la frangia di ambiguità o di estremismo, quello, l'estremismo sia da una parte che da un'altra è errata, però noi diciamo che ce l'abbiamo molto con i nazifasci all'interno del metal, è una cosa che ci fa un po' schifo. E niente, stiamo cercando di portare avanti questo discorso. L'anno scorso l'edizione al Ben Ci Venga, che c'è stata il 14 maggio, ha avuto una grande risposta. Abbiamo avuto quasi 300 adesioni o d'oltre, non ricordo. Che insomma, per la media del Ben Ci Venga, degli squat in generale, è un numero importante. È un numero molto molto importante. Abbiamo avuto ospiti 10 gruppi, c'è stata tanta aggregazione dal basso fino all'alto, in ogni qualità e quantità di tipologia di aggregazione. Si è sentito proprio quello spirito di unione e di condivisione che prettamente all'interno dei posti occupati, e poi da dove è nato tutto alla fine, da dove è nato l'estremo. E quest'anno però ci siamo trovati a fare un'edizione al di fuori di Roma. Allora, sempre parlando dell'iniziativa scorsa, insomma, sono stato presente, ho notato che forse uno dei tanti traguardi che vi eravate prefissati è stato raggiunto, perché ho notato, insomma, proprio, sai, ad occhio, no? Facce nuove. Tantissime facce nuove, ma soprattutto non la solita... il solito atteggiamento dell'ascoltatore, del frequentatore di concerti romano, no? Che ti arriva dopo le 11, tra le 11 e mezzanotte. Alle 8 c'erano già 150, sì, vero, persone. Vero. Un sacco di facce conosciute, un sacco di facce nuove, quindi tante amicizie che si continuano a coltivare e nuove che si continueranno a coltivare a questo punto. Non solo da Roma, tanta gente è venuta da fuori anche, ed è stata veramente un traguardo che all'inizio per noi era anche un po', te lo dico, inaspettato, perché siamo partiti io e Damian degli Airlines of Terror con un'idea e basta. E ti dico, eravamo un po' cagati in mano all'inizio, perché comunque la portata, no? Sostenere un festival, 10 gruppi, seguire tutti quanti e soprattutto non ricreare le dinamiche del concerto, del classico concerto punk, ossia comunque con degli orari prestabiliti, con una backline che soddisfi tutti i musicisti, che vogliamo o non vogliamo, i metallari hanno un'esigenza un poco più alta, vogliamo dire. Mettimi la spia qua, mettimi la spia là. Però alla fine. No, dico aspetto che poi non è che deve essere relegato per forza all'ambiente metal. No, no, assolutamente. Però c'è una bella frangia, diciamo, di gente che lo richiede, di musicisti che lo richiede. Però, insomma, è andato tutto alla perfezione. Veramente, veramente molto bene, tutti quanti contenti sono rimasti. E immagino un po' che sia stata anche un po' una scommessa interna anche agli stessi Spazi Occupati, no? Poi nella scorsa trasmissione dell'anno scorso un po' ne avevamo parlato. Gli Spazi Occupati, no? Ci auspichiamo siano degli spazi ovviamente che non seguono dinamiche commerciali e che no, diano spazio, sì, a generi che anche estremi. Certo. No, ma guarda, loro, tutto il collettivo e i locals del Benci Venga hanno accolto veramente molto molto bene, sia all'inizio, cioè non c'è stata titubanza da parte loro, anzi eravamo io e Damian quelli più cacati in mano, perché no, cioè diciamolo, spesso pure nel circuito degli Spazi Occupati negli anni passati il metal, appunto, perché per questa nomea sì è stato un po' ostracizzato, diciamo così, sì. Si sono dovuti ricredere, si sono ricreduti comunque, perché c'è stata tanta condivisione, tanta fratellanza, tanta condivisione, lo spirito del do it yourself che ha fatto da padrone durante tutta la manifestazione. Totale aggregazione, è stato molto, veramente molto divertente. Poi tu ci sei stato, hai visto un po' come è stata, era come stare a casa, no? Eravamo tutti un po', no, nei meccanismi e per far andare avanti la sincronizzazione dell'evento. Non c'era, no, un... Diciamo, questo che tu hai detto adesso è la chiave di volta di un'iniziativa ben riuscita. Certo. Quando tutti i partecipanti, appunto, si sentono partecipi, sì, sì, presenti e non vengono da fruitori, appunto, di un'iniziativa, ma vengono perché per lavorare tutti insieme, per darsi una mano a vicenda e per far sì che l'evento sia un'ottima riuscita, che riesca molto bene, ma soprattutto che ci si divertino tutti quanti, da chi viene solo ad ascoltare al concerto, da chi ha preparato la cena, chi ha fatto i suoni, chi ha portato la backline, chiunque. Quello è lo spirito, è divertirsi e aggregazione. C'è una parte di ascoltatori, di ascoltatori e ascoltatrici che vivono questa sottocultura e non vorrebbero che venga politicizzata, no? Certo. Senza parlare appunto delle frange estreme e invece nettamente politicizzata a destra, no? Sì, che sì, esistono, anzi. ed è una realtà, appunto, che iniziative di questo genere ce ne sono, soprattutto in Nord Italia. Stanno andando avanti da un po' di anni. E diciamo che anche per contrastare questo tipo di eventi che noi stiamo portando avanti questo discorso, per far capire che non c'è solo quella scelta. Cioè, ma c'è anche la nostra visione, che poi, voglio dire, uno spirito, il nostro spirito di aggregazione, o l'entità stessa del metal, che è reazione e rivolta verso qualcosa di statico, che può essere una società, una chiesa, qualsiasi tipo di forma verso tu cui ti vuoi opporre. Questo tipo di discorso un estremismo di destra te l'avrebbe bannato a priori, solo che non la capiscono questa cosa e non la vogliono capire. No, invece mi interessava, appunto, con la domanda che ti stavo facendo, appunto, sulla cosiddetta, no, zona grigia. Appunto, chi? Gli ambigui. Ambigui, che appunto non sono apertamente schierati verso nessuna frangia politica, però tollerano, nel nome della libertà di espressione artistica, no? Sì, è un po' un ossimoro, quasi, da dire, però la possiamo raccontare così. Cioè, in realtà la tolleranza a questo tipo di discorsi di base ci può essere un'ignoranza. Che dal mio punto di vista è già una presa politica, cioè certo. Tollerare. Certo, perché non esiste vado lì, cioè vado dove inneggiano a determinate in nome dell'arte. Ok, no, non va bene, no, no, non penso che sia condivisibile una cosa del genere, con tutta la questione della libertà di espressione. No, ci sono dei paletti, ci sono, perché insomma iniziative come queste un po' si stanno diffondendo anche a livello mondiale nel panorama del metal. Sì. Ho sentito in giro, appunto, le critiche in questi termini, appunto, di andando a criticare la libertà di espressione, no? Beh, fa un po' ridere detto da parte loro, non credi? No? Assolutamente. Han basato, quello in cui credono è stato basato tutto sulla repressione e sulla censura, quindi tu che da quel tuo canto lì mi vieni a parlare di espressione e libertà di espressione, dai. Non ci inteneriamo, insomma. No, assolutamente. No, bisogna dargli nei denti, anzi. Qua la tolleranza bisogna metterla un po' da parte a volte. Allora, quindi iniziativa della prima edizione che c'è stata a Roma. Iniziativa che diventa a questo punto itinerante. Diventa itinerante per un paio di motivi. Il primo è, diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare una location che ci appoggiasse qui sul territorio quest'anno, Perché? Perché come ben tu sai, la giunta nuova qui a Roma sta mettendo a ferro e fuoco le realtà occupate, gli spazi che mettono in condivisione questo tipo di iniziative, no? dal Brancaleone al Benci stesso, che ha avuto dei problemi sotto il punto di vista di, sai, di alla fine ci sono delle situazioni che questa giunta ti sta mettendo con un attimo con le spalle al muro. Logicamente qualcuno, prima di organizzare qualcosa in un posto dove vive, perché stiamo parlando di uno squat, no? Non è un posto solo dove si organizzano i concerti o degli eventi, è un posto anche dove c'è la casa, dove certo, si vive, no? Se hai problemi con vari controlli continuativi, risulta un po' difficile fare delle manifestazioni magari a lungo termine, come richiedevamo noi, che avevamo bisogno di questa cosa, perché comunque noi di solito si parte 6 mesi prima. Mm-hmm. Tra un discorso e un altro abbiamo pensato, dai, perché non farlo fuori? Questo problema non è solo a livello romano, ma anche a livello italiano, sia non solo dal punto di vista della politicizzazione di estrema destra sul metal, sul genere, ma anche dal punto di vista di sgomberi di posti occupati. Abbiamo cercato di organizzarlo all'XM, immaginavo, infatti è stata era la nostra prima scelta, solo che ci trovavamo con la data, no, del 27 maggio. Loro si trovano a cavallo, che a fine maggio gli scade il visto tra virgolette, e dall'1 giugno sarebbero sotto sgombero, quindi risulta un po' complicato fare una data e stare, diciamo, in tranquillità. Vabbè, comunque in ogni caso noi fortunatamente avevamo l'uomo sul posto, Ricky, che saluto, dei Grumo, salutiamo, bella, sì, raga. Lui ci ha dato una mano a trovare la location, che è lo spazio sociale Libera a Modena, ed è un posto che fa tantissime di queste iniziative. Ha accolto benissimo l'idea di ospitare il Metal Again Shit, in questo caso Emilia Paranoica Edition. E niente, penso che andrà bene, dai. Anche perché, se non erro, Righi è stato uno degli organizzatori di un'altra iniziativa. Sì. Sbaglio? No, non sbagli assolutamente. L'anno scorso aveva organizzato il FAC. Come si chiamava? NSBM, che sta per Nazi Socialism Black Metal. National Socialism Black Metal, sì, una cosa, quindi proprio, sì. È brutta pure da pronunciare in una, sì, lingua bruttissimo, diversa. Bruttissimo. Sì, sì, l'ho organizzato con i Fact Fats, se non vado errato, l'anno scorso, non ricordo. Era a Milano? Sì, era vicino a Milano, era. Ne hanno fatte 2 di edizioni, una anche tipo a Firenze. Comunque, dai, si sta allargando questa cosa. E farlo lì a Modena, anche incentivare su tutto il territorio italiano, organizzare robe di questo tipo per far capire che ci siamo anche noi, e non ci tolgono determinati spazi e soprattutto determinata musica, perché non è loro. Esattamente. Ma invece dopo l'iniziativa romana, ci sono stati altri tentativi di organizzare iniziative per dare una continuità, appunto, di questo genere di musica negli spazi occupati qua a Roma? Guarda, qua a Roma si è comunque, sai, io do, quando posso, una mano a Pompeo, che organizza il GoFest, comunque, anche se non ce l'ha scritto nel nome, ma è chiaramente antifa come, certo, come evento. Per quanto riguarda altri eventi, sì, sempre roba comunque in piccolo, ci si è data la mano tra di noi, siamo più o meno sempre le stesse persone che organizzano quella roba, però sai, un po' il lavoro, un po' problemi, un po' cose nelle possibilità, noi comunque ci siamo prefissati di farne almeno uno grosso all'anno, abbiamo intenzione di continuare, dato che abbiamo avuto una risposta positivissima. Benissimo, benissimo. Allora, io direi che dopo un po' di chiacchiere iniziali possiamo anche, non so, Sì, partiremo. Abbiamo nominato Ricky, abbiamo nominato il Grumo. Partirei con Non hai scuse, tratto dallo split con i Dead on Off. Set Yourself on Fire, il titolo dello split. Grumo da Modena. Non hai scuse. Non siamo in un romanzo di Sutter Kane. Non è la realtà. Non è la realtà. Non è la realtà. Questa è la realtà. Vabbè, no, chiedo scusa per i disturbatori telefonici che... c'è molta richiesta qui. C'è molta radio, richiesta. C'è molta richiesta. Mi hanno detto di... come dire... Intendo mantenerla. Darti una definizione. Una definizione di cosa? Di chiamarti in un certo modo, però cioè, siccome non so le lingue estere, quindi non vorrei... Ah, ok. Che lingua estera in che senso? Da dove ti chiamano? Non lo so, però mi dicevano digli che è un trimone, quindi. Ah, ok. Ricambio chiunque tu sia, Allora, noi nel frattempo stiamo cercando di risolvere un disastro tecnologico. Problemi tecnici. Sì, piccoli problemi tecnici. Ma questo solamente per ricordarvi che Radio Onda Rossa ha bisogno del vostro sostegno. Certo. Per continuare a trasmettere, perché... I 40 anni si sentono. Si sentono sulla tecnologia vetusta della radio. E quindi dateci qualche minuto che torniamo per voi, Credevo peggio. Abbiamo risolto. Però questo è un po' un segno del destino, perché ha chiamato proprio un personaggio. Ah, è proprio lui, è proprio lui. Ha chiamato lui quando stavo passando la traccia di questo gruppetto. Lo vuoi annunciare tu, visto che cioè, il suo disturbo telefonico... Il suo disturbo telefonico è andato a influire... È incredibile, a intercettare le linee della DSL e dell'elettricità, qualsiasi cosa. Satana. E Satana ha detto Damian, esatto. È proprio lui, Damian figlio del demonio. E allora ce lo andiamo ad ascoltare il suo gruppo che ci sarà anche al Metal Again Shit. Voi all'ascolto, vi abbiamo avvisati. Cioè, a vostro rischio e pericolo, infatti. Quindi, a vostro rischio e pericolo. Non abbassate il volume. Sarà un caso che questo pezzo poi si chiama UFO. Aia. Tesla. Vabbè. Gli Airlines of Terror. E niente, è dura, eh? È dura, è dura. È Damien. E questo è Damien. Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto. Obsoleto, ma detta a me. Sì, obsoleto. Hai detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente mi spezza la carotide, maledetto disgraziato, scocchi così. Obsoleto. Che ciò significa obsoleto? Vabbè, noi ci riproviamo, ma non per questo noi... Cioè, ci redimiamo. Cioè, come dire? Cioè, redimiamo? Sì, si dice. Redimere, noi ci redimiamo. Credo di sì. Cioè, non sappiamo neanche come dirlo, quindi. Cioè. No, però sarebbe da dire un bel porco Dio. Porco Dio sempre. Sì, perché siamo andati troppo cauti. Cioè, la mancanza di bestemmia non. Ha influito sulla giusta. Più Satana al popolo. Sempre. Vabbè, ci riproviamo, eh. Airlines of Terror, UFO, Tesla. Questi appunto gli Airlines of Terror, che oltre ad essere formati da componenti satanici, cioè, l'hanno dimostrato? Praticamente, ma sono tutti e quattro a questo punto, sono riusciti a far saltare due volte. Vabbè, che dire degli Airlines of Terror? Beh, gli Airlines sono attualmente, credo, con l'uscita di Terror from the Air, uno delle realtà migliori su quanto riguarda il panorama nazionale, anche non, per non dire europeo, di migliori uscite Death Grind dall'uscita del loro disco, The Terror from the Air, dovrebbe essere del 2015 se non sbaglio. È veramente un disco con una caratura elevatissima. Sono, sono veramente delle macchine, sia dal vivo che... Dal vivo sono impressionanti. Sì, sì. Ricordiamo gli altri componenti degli Islands of Terror, a parte il satanico Damian. Allora, a parte il satanico Damian, ci sta Giuseppe Orlando alla batteria, ex novembre? Sì, ex. Attualmente suona con i Foreshadowing. Ah. Foreshadowing, no, la pronuncia non me la ricordo mai per bene. Poi ci stanno Alfonso Corace, se non sbaglio, la chitarra, Emanuele Pillo, non mi ricordo, comunque suonano in Numeno. Mm-hmm. Sono comunque tutti e quattro dei musicisti di un elevatissimo livello. Si sente. Si sente, soprattutto dal vivo. Sì, sì, sì. Perché insomma, sì, no, l'impatto è notevole. Poi quando lasciano gli strumenti fanno saltare gli elementi elettromagnetici, elettronici. Eh sì, si portano questa carica elettromagnetica negativa. Sì, sì. Bene, tutta bene, colpa di Tesla comunque. Esatto, o degli UFO. O degli UFO, chi lo sa. Va bene, allora noi continuiamo insomma a proporvi tracce dei gruppi che saranno presenti al Metal Against Shit, sì, Emilia Paranoica Edition. Quindi dopo i Grumo, gli Islands of Terror, adesso andiamo a presentare un ensemble death metal di Ravenna. Loro sono gli Hierophant, sono un'ottima realtà di death metal atipico. Atipico perché hanno tanta matrice sludge, qualche roba di grindcore, attitudine hardcore. C'è un membro ex The Secret, se non vado errato, all'interno del gruppo. Sono veramente molto bravi. Adesso hanno aperto i Dank Fetus ultimamente, partiranno per un tour con i Cryptopsy. Mm-hmm. Insomma, sono un bel ensemble. Ma se per la scorsa edizione, insomma, essendo qui a Roma, immagino avete curato insomma sia il contattare i gruppi che dovevano partecipare. Questa volta, essendo a Modena, ci sono stati cambiamenti nella modalità organizzazione? La modalità organizzativa è sempre la stessa: rimborso spese, vitto alloggio da bere e da dormire. È la solita, ecco, condivisione. Penso che sia un punto di partenza minimo. Se poi, voglio dire, magari un giorno ci potremmo permettere qualcosa di più, però magari, che ne so, la decima edizione, siamo alla seconda, adesso partiamo con la condivisione totale da tutti i livelli, sia organizzativi che dal punto di vista musicale. Per la scelta dei gruppi ci avete pensato qua da Roma, l'avete fatto in combutta l'abbiamo fatto in combutta con Modena, con il terzo braccio Ricky. Abbiamo un po' messo le menti, i neuroni insieme, ed è uscita questa scaletta. Va bene, allora passiamo gli Hierophant. Sì, ok, gli Hierophant con Mass Grave dall'omonimo disco. Allora, quindi proposta successiva dal nome Infettivo. Beh, sì, il nome è il prossimo. Comunque grandissimi gli Eurofant, visto? Sì. I prossimi invece sono un po' più giovani. Sono un po' più giovani e si chiamano gli Ekpyrosis, sono di Monza. Hanno cacciato quest'anno il primo full che si chiama, vado a vedere, perché anche questo è poi un po' effettivo come noi, Asphyxiating Devotion è il titolo del full. Il pezzo si chiama Profound Death. Allora hanno alle spalle due demo e un EP, se non sbaglio, vedevo su Metallus oggi. Lo sai, bravo, ho studiato. Niente, sono di Monza e siamo felici di averli nella nostra proposta. Ecco a voi. Ok, allora su Radio Onda Rossa Ekpyrosis. Allora, questi appunto gli Ectilirosis con il pezzo Profondet, il pezzo. Ok. Bravi, eh? No, belli cattivi. Volevamo dire il nome del lavoro invece, che è Asphyxiating Devotion. Perfetto. Quasi anglosassone come pronuncia. No, se vinco la dislessia non sono male come pronuncia. Va bene. Allora, siamo giunti all'ultimo, anzi al penultimo. Al penultimo gruppo che presenzierà questa edizione del Metal Again Shit. Loro sono tutte vecchie conoscenze alla fine del circuito antifa generale proprio italiano, perché hanno, a parte che due di loro li abbiamo avuti già ospiti l'anno scorso all'edizione romana, sto parlando di Gioele e di David, che hanno suonato con gli Hemophagus l'anno scorso. E oltre a loro c'è Gabriele dei Kansas Breeding, Terror Firmer alla voce, e al basso abbiamo Claudio dei Blandvagar, Ancient Cult, ex Nagasaki Nightmare, un altro che sa grandissimi Nagasaki Nightmare, un altro che poteva, no, conoscere quella parola strana di cui si discuteva prima, no, i trimoni. Ciao Claudio. E niente, loro sono i Gravesite. Andiamo a presentare un pezzo del disco di 2 anni fa, Horrifying Nightmares, perché questo è il loro primo disco, però ne hanno cacciato uno che esce a breve, fra qualche giorno, perché hanno cacciato un singolo che abbiamo postato anche sull'evento della manifestazione. Il pezzo che stiamo andando a presentare adesso si intitola Submerged in Vomit. Ci piace. Eccoli qua, Gravesite. Va bene, ci perdiamo troppo in chiacchiere qua. Sì. Comunque grandissimi Gravesite. Abbiamo cercato di tenere l'asticella bella alta, Sì, no, ne stavamo parlando qui a microfoni spenti. Comunque, sì, gruppi di livello, insomma, per capacità tecnica, anche la qualità delle registrazioni è molto buona. Certo. Ottimo. Peculiarità anche compositive. Cerchiamo di tenere un... Siamo partiti forte l'anno scorso, non ci vogliamo abbassare, vogliamo tenere alto, se non più alto dell'anno scorso, allo stesso livello. E adesso come qualità di gruppi siamo allo stesso livello dell'anno scorso. Livelli tecnici, di resa tecnica, di qualità, che... non è che per forza devono essere relegate al mondo metal, no? No, perché poi anche il concerto punk hardcore, che inizia ad orario dove si sente tutto e funziona tutto, è spesso un miraggio, però ben venga. No, vabbè, discorsi insomma che ultimamente a Roma se ne stanno facendo, ci si sta impegnando, da quello che vedo, un pochino almeno, per ovviare a tradizioni. Il primo gruppo suona a mezzanotte e mezza, tipo. Sì, cose quelle, così. Quelle robe lì. Brutto. Prima no, parlavamo di quando abbiamo suonato noi per ultimi, ricordi, al bench. Alle 4 di mattina. 4 e mezza di mattina. Era. Oppure concerti all'Ateneo che iniziavano, insomma, iniziavano alle 4 di mattina. Vabbè, però insomma, ci si ragiona su, da quello che vedo, insomma, da quello che vedo e sento ultimamente, anche nel pensare alle iniziative, negli squat si sta un po' cercando di ovviare a queste cose qua, appunto per portare un po' di qualità, che non è una parola brutta, no? Certo, indubbiamente, perché vabbè, oltre alla qualità che poi tu porti a chi ti viene ad ascoltare, è anche la qualità di esecuzione, perché ritrovarti a suonare a quel tipo di orari inconcepibili che stavamo dicendo poco fa, ti ritrovi che magari sabato sera ti fai quella birra di più, quelle due, quelle tre birre di più, e niente, alle 4 di mattina la testa ragiona in un modo, le mani in un altro. Quindi non riesci a dare l'impronta vera di quello che tu o chi per te riesce veramente a dare. Vabbè, anche se sei straight edge, comunque iniziare a suonare troppo tardi, quasi a mattina. Stressa il fisico comunque, ti stressa anche il fisico, anche se sei straight edge. E stressa pure quelle persone che sono venute, insomma, per l'iniziativa, con tutti i buoni propositi del caso. Certo. E quindi buon lavoro a tutti. Sarà arduo, ma ci proviamo. Noi l'anno scorso ci siamo riusciti, iniziati alle 8, ti ricordi? Quest'anno anche noi ci saremo agli orari, quindi. Ma scusa la domanda un po' personale, un po', cioè, come. Vabbè, forse non interessa a nessuno, ma. Vabbè, la trasmissione è così, quindi. Ma il lato tecnico dei suoni l'anno scorso è stato interno del bench, ci sono stati apporti esterni. L'anno scorso avevamo 4 fonici al bench. C'era Ale del bench, c'era anche il fonico dello ZK. Ecco. Poi però, tipo, quando hanno suonato i Deceptionist, c'è stato Beppe Orlando che si è messo alla regia. Qualche volta c'è stato anche Daniel degli Ornio. Sì. Si sono praticamente alternati, perché comunque l'idea era di avere 2 fonici. Poi ne abbiamo avuti 4, quello vabbè, va bene anche così. C'è stato un poco di abbondanza, chiamiamola così. Però anche per una manifestazione del genere, un solo fonico che deve fare fonico, si smazza i 10 gruppi, insomma, è un bel po' ardua come cosa. Invece così c'è più collaborazione, le cose vanno più lisce, va tutto per il meglio, come è andata l'anno scorso. Sì, poi. Sì. Va bene, no, era giusto insomma sottolineare anche questi aspetti tecnici che poi cioè, fanno riuscire un'iniziativa, dici come, certo. Come accade con un impegno maggiore, insomma, quando è possibile. Allora, ci eravamo lasciati un'ultima chicca. Eh sì, è una chicchetta, in realtà, che è più uno scheletro che una chicchetta, perché come il sesto gruppo che suonerà è il mio di gruppo, sono i Veranos Dogs. Solo che noi siamo entrati in studio. Ma da... vi siete autoimposti, tipo no, organizziamo noi, quindi suoniamo noi. Ma no, era anche per più che altro per rientrare nelle spese, perché noi saliamo a meno del rimborso, saliamo a Modena a 90 euro, quindi è una autoproduzione totale praticamente, non è un'imposizione, era per far quadrare i conti. Poi sì, no, poi la prossima basta, cioè no, non è che cioè, il pallone è il mio, gioco io, no, assolutamente, era perché si è dovuto organizzare in questa maniera e gli eventi han fatto che le cose si svolgessero in questa di maniera. Niente, poi per quanto riguarda il caso, ti stavo dicendo, noi siamo entrati da poco in studio, mancano l'ultima sessione di voce, le ultime quattro voci di registrazioni, ti ho portato una piccola chicchetta, da così, un corpo spoglio, pre-mix, pre-tutto, solo la presa, senza voce, un pezzo strumentale ti ho portato. Bene, bene. Ma bene. Così, giusto per ascoltarlo in simpatia. Va bene, va bene. C'ha un titolo questo brano? Sì. Avrà un titolo? No, ce l'ha già. Si chiama The Rising of the Necrotic Hound. Belli sti nomi, li adoro. Allora, loro sono i Veranos Dogs, questo è sempre Do It Yourself. Sì, vedi la dislessia. Ci riprovo? Sì, allora, no, vai. Loro sono i Veranos Dogs, questo è sempre Do It Yourself Invasion su Radio Onda Rossa. Allora, questo appunto in proprio non anteprima di più. Sì, l'anteprima dell'anteprima, cioè qua parliamo di midollo spinale proprio. Senti, lavoro che probabilmente uscirà quando? Tra una mesata completamente autoprodotto. Usciamo direttamente con un full 10 tracce. Si chiamerà Summoning the Hounds. Vediamo se riusciamo a trovare qualche bella etichetta per far uscire in qualche bel formato. Ok. Lo vorreste far uscire su vinile? Pensiamo di farlo uscire prima, poi vediamo come. Va bene, allora, quindi la scaletta l'abbiamo completata con i gruppi che parteciperanno. Sì. Te lo ricordi l'indirizzo del Libera? L'indirizzo del Libera me lo ricordo perché ho la tecnologia avanti. Posso aprire la pagina di Facebook e controllare in maniera te lo dico io, dai. Me lo dici tu. Allora, cioè. Libera Officina a Modena in via di Rassegno 7. Numero 7, bravo. Ecco. Da che ora? Perché insomma, con gli orari. Allora, si parte presto perché, come ti dicevo, con gli orari saremo un po' fiscali. Si partirà alle 10. Alle 10 il primo gruppo è on stage e saranno i Grumo. Abbiamo già la scaletta, se vuoi la posso anche raccontare. Ci saranno i Grumo dalle 10 alle 10:25, poi suoneremo noi con i Veranos Dogs dalle 22:40 alle 23:05, poi gli Airlines of Terror dalle 23:20 alle 23:45. Poi gli Ekpyrosis da mezzanotte a mezzanotte e 25, gli Hierophant da mezzanotte e 50 all'1:15 e i Gravesite da 1:30 all'1:55. Ok, possibilità di cenare in loco? Sì, ci sarà possibilità di cenare, possibilità di bere, possibilità anche per chi magari vuole rimanere, tipo appoggiarsi, dovrebbero esserci delle camere, degli spazi con divani, letti, per rimanere anche la notte, insomma, perché magari vieni da Bologna o da zone limitrofe, non ti vuoi spostare, insomma. E poi a fine dei concerti ci sarà, credo, un DJ set che Ricky ci diceva che dovrebbe esserci, quindi... Ma trash? Io spero di no. Ok. Io spero di no. Mi ero proposto a fare un DJ set Death Grind Splatter, ma forse magari... Poi faccio troppe cose, suono, devo stare al banchetto, fuori, robe, no? No, pure il DJ no. Poi voglio bere qualche birra anche io, no? Vabbè, mi pare giusto, insomma, certo. Dai. Va bene, allora, raccontaci poi come è andata. Beh, certo che vi racconterò come è andata. Se poi ti va, puoi fare sempre una macchinata, tu che sei uno delle macchinate improvvise. Sì, sono delle macchinate improvvise, però ci abbiamo un po' di iniziative. Adesso le andiamo un po' ad elencare, okay. Quindi in vista dei 40 anni. Io per adesso ti ringrazio. Grazie a te, Dario, grazie a Radio Onda Rossa, auguri ancora una volta. Tante belle cose. Va bene, grazie mille, Ulderico. A te. Dai, forte. Auguri a tutto il Metal Against Shit, sarà una bomba sicuramente. Grazie dai. Mille, dai. Allora, 22:27 minuti primi, quindi in chiusura di trasmissione andiamo a ricordare le iniziative di questa settimana. Vabbè, sì, quella che insomma... per affetto e per storia appunto della radio, quella a cui noi tutti e tutte siamo più legati, che è la data del 24 maggio. 24 maggio 1977 iniziano le trasmissioni qui a Radio Onda Rossa. E quindi domani andiamo a festeggiare qui in strada 40 anni di Radio Onda Rossa. Insomma, lo storico appuntamento sotto la sede della radio qui in Via dei Volsci 56. Per chi non lo sapesse, nel quartiere di San Lorenzo. Per l'occasione siamo andati a ristampare un vinile che, se ce l'avete, ce l'avete consumato. Eh sì, perché siamo andati a ristampare lo storico vinile di Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo. Obsoleto, ma detta. E quindi lo andiamo a presentare qui sotto la radio con un concerto, appunto. Di alcuni dei membri di Onda Rossa Posse. Quindi, oltre alla presentazione del vinile, con l'esecuzione di alcuni brani dal vivo, appunto, qui sotto la radio, ci sarà anche Kento. E poi aperitivo in strada, appunto, curato da Radio Onda Rossa. Aperitivo musicale con ospiti a sorpresa. Potrete visitare gli studi di Radio Onda Rossa, che saranno aperti tutta la sera. E quindi venite tutte e tutti. I microfoni resteranno aperti. E quindi venite a festeggiare domani Via dei Volsci 56, 40 anni di Radio Onda Rossa. Poi un altro paio di iniziative questo sabato, sempre a sostegno di Radio Onda Rossa. Questo sabato 27 maggio al CSOA Forte Prenestino con la Tecnazza. E quindi dalle ore 23 al Forte Prenestino, due techno live set, una cura di War Bear. Un altro set a cura di Aona, Drone, Gegen Berlin. Me le ricordo da tanti anni fa le serate techno al Forte. Invece un'altra iniziativa, non a Roma ma a Latina, a cura dello Swamp Collective. Per la sesta edizione del Free Choice, Free Sex, Free Music, un festival contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia. Festival antirazzista e antifascista di Latina. Con un boato di gruppi, tra i quali Pelios, Orange Jewish, Pets on the Moon, Kaufman, Dal Company, Myself. E a chiudere con i Kalashnikov Collective. Mentre sempre questo weekend non abbiamo dettagli precisi, però dovrebbe esserci il compleanno del Ben Ci Venga. Confermi, hai notizie più... Non è che ho notizie, sai, sono nel gruppo di organizzazione di concerti a Roma, sai, quello privato, quella cosa massonica. E c'è segnato che 26 e 27 sono le date. Ok, vabbè. Però non c'è segnato nessun... Ci abbiamo un po'... Vabbè, siamo vittime della febbre della social, che se non vediamo una cosa che esce... Ma sì, ma ci sarà... No, ma in realtà non ho visto flyer neanche in giro. Però da qualche so ci dovrebbe essere. Va bene. Dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci. Poi se ne ho conferme ti mando un messaggio. Va bene. Così ne parli, ne fai parlare qualcun altro. Va bene, no. Comunque dovrebbe essere una due giorni. Una sì. Dedicata al post-punk. Sì. E un'altra dedicata al punk hardcore. Sì. Questo venerdì e questo sabato al Ben Ci Venga Squad. Allora, 22 e 34 minuti. Andiamo a chiudere così la puntata di quest'oggi di Do It Yourself Invasion. L'appuntamento è a martedì prossimo. Non vi anticipo nulla, ma dovrebbe esserci un gruppone da Roma che presenta un disco appena uscito. Gruppone, eh? Va bene, grazie a tutti e a tutti per l'ascolto e per la pazienza. Un abbraccio. Il saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Un abbraccio. Ci vediamo domani pomeriggio qui sotto la radio a festeggiare. Oh, vi è pure te, eh? È certo che ci vengo anche io, è normale. Ok, dai, vi lascio con un po' di automatico, poi dalle 23 More Fire.